Gentili colleghi all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Parenzo merda, pagato da Soros. Sei un gabinetto schifoso, come Macron. Vai giù, se volete parlare al telefono con la zanzara da fallotto 0024 0024 oppure se volete mandare uno sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Si ricomincia? Si ricomincia, meno male, caro David, si ricomincia. Eccoci. Sono carichissimo questa sera. Sono carico, pallettoni. Soprattutto per un motivo, ti dico subito. Sentiamo. Un motivo. Sì. Tu sai che qui in questo. Che porcheria hai fatto? No, in questo weekend. Enorme bill. No, sono stato a Verona, ma altre cose, ma poi racconterò. Questo grande building qua, costruito dal signor Renzo Piano, sì, tempo addietro fu diviso in due. Da una parte la prestigiosa società chiamasi Il Sole 24 sì, Ore, esatto. Come sai, no? Come sì. Sai? E dall'altra i signori della Price Waterhouse, che sono dei serissimi revisori di conti. Che sarebbe PVC, quello che si vede PVC. Esatto, esatto. Come sai, io mi reco spesso, ma non per spregio. Non per questo, semplicemente perché i loro cessi, ma è un merito, sono più puliti dei nostri. Perché non c'è niente da fare. Perché quei manager si vede sono che più educati dei giornalisti. Bravo. Probabilmente i giornalisti del Sole della Radio sono molto più zozzoli. Non dico questo. Non diciamo questo, per carità. Diciamo questo. Qualcuno potrebbe. Di guai. Esatto. Ci sono già una quantità di però, guai. Questo è un dato di fatto. Io vado nei cessi allo stesso piano, secondo piano, vado ai cessi nostri, puzza, merda, messa buttata per terra, sigarette, fumo di sigarette, una cosa vergognosa. Anche tu contribuisci. Devo dire di no, qui, nulla. Alla sede di Roma è prestigiosissima, invece tutto bello pulito, tavolette allora, degli uomini che si mi alzano. Mi sposto di 10 metri. Ma dimmi se uno può aprire una trasmissione radiofonica. No, ma ti dico perché. È una cosa indegna, proprio. Mi sposto di 10 metri, vado al bagno, per fortuna ancora non blindato, cioè non c'è ancora un pass da mettere, no? Uno può andare liberamente, chiunque può andare, sicurezza zero da questo punto di vista, ed è un bagno straordinario, lindo, bianco, pulito, con un signore spesso che trovo là davanti, uno di quelli delle pulizie, che va lì spessissimo a pulire ogni giorno, una cosa, pagheranno di più, non lo so cosa succede. Fatto sta che questi bagni sono puliti, dunque io mi reco presso quei bagni. Trovo una scritta. Quello zozzone di Cruciani dovrebbe utilizzare unicamente i propri servizi igienici. E tu capito? Qualcuno in quel luogo della sono Price d'accordo con loro. Ha messo questo cartello. Incredibile, ragazzi. Naturalmente. Io continuerò a cagare nei vostri bagni liberamente finché non viene qualcuno. Qualcuno dei servizi, dei vostri servizi, continuerò a cagare nei vostri bagni. L'annuncio minaccioso di Cruciani deve già su libero. Allora, ragazzi, la frase del giorno, la frase è Berlusconi. Berlusconi, amico mio, io voglio fare il partito anti-animalista. No, io ho letto ieri un'intervista della signora Brambilla che ha detto. Questo è il virgolettato esatto, quindi nessuno sarà. Porterò, disse ieri la Brambilla, gli animali nel palazzo. E dov'è la notizia? ci sono già gli animali nel palazzo, che cazzo, che roba è? Sì, ieri ho letto, ci sono già le bestie nel palazzo, a tutta pagina, sì. Porterò gli animali nel palazzo. E dov'è la notizia? Dice? Io ho detto, ma che roba è? Non mi pare che sia una notizia così clamorosa. Primo, cioè, hai ragione su questo. Seconda cosa, Berlusconi, sì. Amico mio, io non so se è la sensibilità. Sì, a me è molto simpatico Berlusconi. Sì, assolutamente, però guarda, mai mi è stato più simpatico come in questi giorni. Sì, perché mi non conta piace, cazzo, perché conta no, meno. No, perché no, conta è proprio simpatico, mi dice quello che è veramente forte. Sì, proprio, sì, d'accordo, sì, però senti molto questa roba qua, senti. No, ma non... Ho sentito un sacco di donne, dice. Loro tra il marito sul letto, dentro letto, tra il marito e il cane, scelgono il cane. E questo può anche essere. Ma no, dai, su, questo amico può anche mio, essere, dai. Lui su queste cose se ne intende, perché lui sa. Io voglio fare cose. Il partito antianimalista, cioè. Beh, no, antianimalista. No, noi con Cruciani e contro gli animali sotto. Ragazzi, mi sono rotto i coglioni di questa roba qua. Il partito animalista della per Brambilla. Una salsiccia, il partito metti. Trasversale della Brambilla per fare cosa? A parte che sì, i partiti monotematici non hanno mai beccato un voto nella storia, quando tu sei concentrato, guarda i pensionati, eccetera. Berlusconi pensa di portare addirittura in Parlamento 160 parlamentari e 62 senatori del movimento animalista, amico mio! Ma non porta cani da cani e cavalli. No, purtroppo no. Caligola fece diventare senatore il proprio cavallo. Voleva, credo. Sì. E allora io ho voluto fare, perché sono birichino, una domanda birichina. Ho messo una domanda speciale, ho detto, ma signora, se lei dovesse trovarsi nella drammatica situazione di dover scegliere tra suo marito e il suo cagnolino, che scelta farebbe? Cane. E le signore, profittando dell'anonimato, hanno scelto per il 73% il loro cagnolino. I famosi cani da lecca, però Beh, è perché magari sono sposate da 40 anni e non vogliono più dormire col marito e vogliono sentire un cane accanto, ragazzi, cioè, il calore del è ridicolo, cane, dai, sì. È tutto ridicolo, è veramente una cosa patetica, lo dico con affetto come fa Parenzo, sì, ridendo eccetera, il movimento animalista, dai, ma di cosa parliamo, bisogna fare al contrario, siamo invasi da una retorica sui cani, ci sono le spa per i cani, ci sono gli alimentari per i cani, bisognerebbe fare il partito anti-animalista, no? Il partito animalista, anti-animalista. Berlusconi che dice passeggio ad Arcore con le pecore, gli agnelli, i cani, 13 in tutto. Senti, ti prego. Nelle mie case, nei miei parchi, ho dei cavalli, ho dei daini, ho delle caprette. Da poco, come qualcuno ha ricordato, anche 5 pecore, agnelli, che sono straordinari. Pensate che mi seguono quando faccio delle passeggiate la mattina e a un certo punto mi sono incontrato anche con gli 8 cani, si sono messi insieme, i cani hanno dato dei baci con la lingua agli agnelli e adesso alla mattina alle 7 io vado a spasso nella bellezza del mio parco di Arcore con un seguito di 13 straordinari animali. No, ragazzi, adesso io vi dico una cosa, no? Tutto questo è molto facile, no? Beh, quando c'hai la tenuta, pare, e dai, su, c'hai la tenuta, non te ne occupi un minuto? Te ne occupi, secondo te se ne occupa quotidianamente? Se ne un'oretta al giorno, poi ci sono tutte le sue maestranze, che sia il maggiordomo dei cani, dai, cioè meraviglioso, il maggiordomo dei cani avrà. Allora, la questione dei vaccini, ragazzi, ecco, ci su sono, non scherziamo. Ci sono delle persone, non ci sono delle persone su che si oppongono a quello che chiamano addirittura nazivaccinismo, cioè dire, l'imposizione di 12 vaccini, la possibilità di perdere addirittura la potestà genitoriale se tu non vaccini il tuo figlio, non lo puoi mandare a scuola, ti giusto becchi una questo multa di 7.500 euro. Fino a 7.500 fino euro, al massimo. Allora, ragazzi, Pepe. È un Pepe, Bartolomeo Pepe, un ex 5 Stelle, un senatore della Repubblica che dice che siamo in un clima di nazivaccinismo, cioè ci vogliono imporre della roba che fa male. Propaganda pazzesca, è vergognoso, guarda, vergognoso. C'è questo nazi vaccinismo che sta dimostrando tutta la sua pazzia. Imporre 12 vaccini, ci dice il senatore ex 5 Stars, è da criminali. Non si può pensare di vaccinare senza sapere lo stato immunitario del bambino stesso. È da criminali, e chi sta pratica e vuole praticare questa cosa criminale. Ma andiamo a dalla vostra parte, caro Parenzo. Voleva, certo, devo dirti la verità. Allora, la manifestazione di sabato a Milano, bellissima. No, bellissima, patetica, bei colori, patetica, belle, patetica. Ma tu sei patetico. Patetica. 100.000 persone che manifestano. Per manifestare contro che cosa? Per che cosa? Spiegami. Non è contro i muri. Non è contro nessuno. Contro come no? Era contro i muri. Contro ogni muro. È contro ma la retorica dell'odio. Dove sono i muri? Dove sono i muri? Che in Italia entra chiunque. Dove sono i muri? In Italia entra chiunque. No, è un colabrodo. È un colabrodo. 100.000 persone. È un colabrodo. Entra chiunque. Maggioranza silenziosa, gente che non urlava, non urlava slogan, dai, non c'era odio. Su, 100.000 una persone manifestazione nella sul nulla, capitale morale sul nulla, di questo paese, nella sul zona nulla, Milano, sul Milano, nulla. Milano grazie. Dai. Milano grazie, grazie al sindaco Sala, grazie al coraggio di quelle ma donne smettila. E uomini che sono andati a Milano. Dai, 100.000 persone quando hanno tutti i diritti del mondo, hanno, per dire una cosa molto assolutamente semplice. Sì. Chi nasce e studia in Italia è no, italiano. Ma non è questo. Fine. Aspetta chi un attimo. Nasce e studia. Vabbè, quello che c'entra, un'altra chi cosa. No, perché ancora non è così. No, ma allora, chi nasce e studia in Italia è italiano. Allora, basta ti dico odio, subito basta una cosa. Amori, no, basta propaganda. Ti dico una cosa. La più bella risposta sì, a questi bene, quattro d'accordo. Stronzi che chiamano chi? Qui, che chiamano non è qua, vero. Perché sono quattro stronzi. Aspetta perché, un secondo. Purtroppo mi fai dire una cosa? Mi fai dire una cosa? Ma come no? Allora ragazzi, no. La più bella a quei quattro, va bene, perché d'accordo. Sono quattro stronzi. Mi fai Donato dire una cosa? Varese, Mauro D'Amanto. Adesso mi impongo, adesso mi impongo. Altri, adesso mi impongo. Adesso mi impongo. Allora, la questione è molto semplice. La questione è molto semplice. Uno fa una manifestazione, caro Parenzo, per i diritti dei migranti. Sì. Ma amici miei, ma qui c'è tutto, i diritti esistono già. Eccolo, cioè, è un paese dove chiunque può entrare liberamente. Ecco. Ti danno una diaria giornaliera. Ecco Giuseppe Belpietro. No, ma perfetto. Non c'è bisogno, è la realtà. Perfetto. È la realtà. Vengono in Italia per delinquere perché sanno che in Italia in carcere stanno poco, ma ci sono ma mille sondaggi, mille cose, mille statistiche su questo. I bambini morti davanti a Lampedusa vengono in Italia per delinquere. Via, quando ti cacciano via dall'Italia, quando ti cacciano via perché hai commesso un'illegalità o perché ti cacciano per, con un decreto di espulsione, non ti portano al confine. Nel 99% dei casi ti danno un foglio di via con cui ti pulisci il culo. Diglielo, questo è il punto. Diglielo alla legge in vigore. Ma non mi interessa. Si chiama Bossi Fini, se non sbaglio. Ma chiunque, non me ne facciano questione di destra Bossi o sinistra. Bossi Fini, la legge in vigore fermo sull'immigrazione. Lì, fermo lì, fra poco andiamo dalla vostra parte. Gasparri Bossi contro Fini, tutti. Bossi Gasparri Fini. Gasparri contro tutti. La legge si chiama Bossi Fini. Ma chi se ne frega. La legge si chiama Bossi Fini. Ond'è che chiudete, cornuti? La Zanzara. Lorenzo, fai veramente vomitare. Gasparri contro Librandi sui clandestini immigrati and company. È la manifestazione dei razzisti. No, tu portiamo stai zitto gli africani, il tuo sto facendo no, no, gli immigrati, quindi stai zitto che adesso tratta. Tocca a me a parlare. Voi no? Siete per la tratta dei clandestini. Sì, no, certo, dai. Tu sei capace solo di dire prego, queste Librandi, cose va assurde. Avanti. Gasparri contro Maiorino, che è un assessore milanese. No, è il promotore di questa straordinaria marcia, è stato Maiorino. Non è un assessore. Marcia di ipocrisia totale. Assessore alle politiche sociali, vabbè. Che ha lanciato e proposto vabbè, questa vai. Bellissima. Che ha non 100, fare la marchetta Maiorino. 100, ma chi no, se ne frega? 100.000 persone. Ma chi se ne frega? 100.000. Ma chi e se ne frega? Parte, quattro stronzi che ma chiamano cosa 800 vuol 24, dire? 0, 24. Ma cosa vuol dire che 100.000? 100.000 che marciavano. Ma 100.000. Sul nulla. Come sul è nulla, successo a Madrid. Come a Madrid. Ma che Madrid? Barcellona, ma che vuol bellissima, dire? Grazie Europa, l'Europa migliore, l'Italia più forte, più bella, sorridente, sentiamo, senza paura. Sentiamo. Non l'Italia della Lores d'Arcais lì. Flores. Della Florem Lores lì, come si chiama quella decorticata? Lores. Ecco, esatto. Interrompete per Gasparri, interrompe sempre perché non ha argomenti, è un classico. Vi dovete vergognare. Va bene, va bene. Razzisti. Gasparri, un secondo, poi vi do la parola. Parla di razzismo, dà patenti di razzismo perché evidentemente è un intenditore, ma noi in realtà siamo molto in sintonia con delle cose che sono state dette. Però Gasparri, ho capito che non hai argomenti. Gasparri, sei un po' invecchi sempre peggio. Dai. Cioè, Gaspare è riuscito a dire in un minuto a Maiorino, in meno di un minuto, miserabile razzista, siete dalla parte degli accoltellatori. Ma una cosa incredibile, ma veramente. Ma come si fa a dire una minchiata? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma io dico, ma ride l'altro, ma cosa c'è da ridere? Ma è una cosa drammatica. Perché mi fa ridere il circo. Perché adesso questo teatro di dalla vostra parte a sostenere sta roba. Vedrai che chiamerà qualcuno. Ma guardate, ve lo dico, amici che ascoltate la radio, parte migliore del paese, imprenditori, gente seria, gente per bene, notai, avvocati, camionisti, operai. Non è vero, operai, gente per bene, imprenditori, c'è la parte migliore di questo paese, quella che non vuole conflitti, non è per la radicalità del conflitto. Ragazzi, stasera chiameranno sicuramente quattro stronzi per dire, inveire, fare. Sì. Non preoccupatevi, noi siamo la maggioranza, perché siamo quei 100.000. Ma che c'entra 100.000? Siamo quelli, Non minima. Spaventatevi, siete in tanti, siete lì, mi abbracciate quando scendo per strada. Lo so, ci siete, siete tanti, ma silenziosi. E tirate sulla testa quando c'è bisogno. Grazie Milano, grazie Sala, grazie Maiorino. Grazie a quella città. Non ti prendono l'ufficio stampa del PD. Non capisco. Grazie, ma che PD? Non è mica il PD, pure fischiato. È un sindaco. È un sindaco che ci ha messo la faccia e non ha avuto paura. Non c'è Angelo! Non ha avuto paura di perdere voti. Non ha avuto paura, ha organizzato la marcia. Mazza, sei un agit prop pazzesco. Non ha avuto paura. Sul nulla. Ci ha messo la sua faccia. Milano accoglie 100.000 persone. Tutti gli altri che chiameranno stasera vadano a fare il culo. Angelo, vai. Pronto, Angelo, Giuseppe. Dimmi. Pronto. Vai, dimmi. Senti, dimmi. Vorrei dire due paroline a quella mezza sega che è lì vicino a te. Sì, che cosa vuoi dire? Grazie per aver chiamato. Quello vola alto, hai sentito? Cioè, fa l'elogio di Sala, fa l'elogio della maggioranza silenziosa, di un sindaco che ha messo Milano per bene, su questa, dell'Italia per bene, secondo lui. 100.000 persone. Ma che c'entra morto di fame? 100.000 persone. Ma che c'entra morto di fame? Tu sei morto che cammina. 100.000 persone. 100.000. La marcia dei 100.000. La marcia dei 100.000, Sala il nuovo Romiti. Stai zitto, pur di portare un pezzo di pane a casa, faresti qualsiasi cosa te. 100.000, fai 100.000 persone. Cruciani. A Milano 100.000 persone. Ma cosa vuoi ragionare? Ma che c'entra tu? Ma non, 100.000 non capisco perché 100.000 persone a Milano valgono di più di quattro imbecilli di Angelo che dalla provincia di Pistoia. Ma di Angelo sicuro? Perché? Angelo da Pistoia, perché Angelo da Pistoia nella sua vita non ha fatto mai un cazzo. Ma che ne sai? Telefona, protesta, urla contro i migranti. Ma che hai lavorato? Dai, ho lavorato. Ma dove? Ma dove? Un'impresa. Ma che quale cazzo impresa? Ne sai te? Ma che impresa? Ma invece di guadagnarti il pane a fare l'utile idiota, vai a lavorare. Ma che c'è? Perché non sta lavorando? Sto lavorando. Vivendo i valori democratici di questo paese. 100.000. Che sei l'uomo più offeso d'Italia. Ma non è vero. Puoi portare un pezzo di pane a casa, faresti qualsiasi cosa. 100.000 persone. Ma alla fine è vergogna. Ce n'erano 100.000. Torna a Pistoia, Angelo, torna a Pistoia, stai lì a Pistoia tranquillo, blindati, chiuditi in casa, preparati, mentre tu stai in casa barricato dentro al buio, con i fucili puntati fuori, c'è un mondo che vive, che sogna, che si ama, mentre tu sei dentro casa, chiuso al buio, in attesa che qualche ladro presunto arrivi. Che ne pensi della manifestazione, Angelo, che ne pensi della manifestazione? Non ti sento, la fortuna che non senti quello che dici. Dai, non dire stronzate, che ne pensi? Che ne pensi della manifestazione di sabato? Quella a favore dell'immigrazione? Sei un testa di cazzo. No, ma io che c'entro? Sei un testa di cazzo morto di fame. Ma quella è parenza. Sei un testa di cazzo morto di fame. Ma perché? Mica una fesa, non sente. Vai a lavorare. Trovati un lavoro serio. Ma non senti. Angelo. Ma che sei sordo, non senti? Giustamente Dario Vergassola mi scrive. Quando ti chiamano mezza sega, rispondi finiscimela. Giustamente, signor Vergassola, l'ottimo Vergassola. Paola da Torino, vai Paola, vai. Dimmi, sì, Paola, ciao dimmi. Cruciani, sì, ti cambio subito argomento. Puoi fare tutto. Grazie, sei molto cortese. Volevo solo dirti che io sabato ho portato i miei cani alla spa. Hai portato i tuoi cani alla spa, amica sì. mia. Se tu hai portato i tuoi cani alla spa, sì. va bene. Ma se tu ti aspetti che io ti accolga dicendo hai fatto benissimo. No, io non mi aspetto nulla. Ma perché porti io i cani dico, alla ma spa? Hai da eccepire ma perché porti i cani alla spa? Ma i cani devono vivere in mezzo alla merda! Devono vivere ma in mezzo ai campi! In mezzo ai boschi! I cani vivono in mezzo al lusso, non in mezzo alla merda. Allora, fermi tutti. Voglio capire in che modo fai vivere i tuoi cani. Adesso noi ti richiamiamo, abbiamo il giornale radio, come sai, e richiamiamo tra un quarto d'ora e tu ci racconti come fai vivere i tuoi cani, in quale lusso fai vivere i tuoi cani. Io c'ho anche perfino il cagnolino. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it La Zanzara. I will be the greatest president that God ever created. Crucia, ma niente fosse pure ricchione. Parla di figa, per favore, a noi non frega in casa di niente. Mamma mia, Parenzo, quanto fai schifo. Ma fai veramente schifo. David, la maggioranza silenziosa, ricordati che è con te. Qui si combatte l'ignoranza e la superficialità. Non mollare, David, non mollare. Allora, in questa incredibile giornata di sabato, dove così, in diverse parti così, d'Italia è così, avanti. Si sta caricando. Eravamo in 100.000, eravamo. Oddio, è così, che palle, è così, è così. Questo è il paese mia, reale. Che noia. Aziende che investono in Italia. Ma che c'entra? Donne cosa e uomini c'entra? Che ogni mattina vanno a lavorare nella metropolitana e incontrano migranti. Oggi è così. Non c'è conflitto, non c'è dalla vostra parte. Tutto il mondo non è quella roba lì, non è zanzara. Il mondo è bello, è un mondo dove la gente si ama, si vuole bene. Funzionano le cose, poi certo ci sono dei problemi, ovvio, come in tutte le società complesse occidentali, è evidente che è così, ma non fate distruggere questo paese da gente che vuole rendere una macelleria a questo paese, che vuole darvi un'immagine come alla me, Quentin Tarantino. Tu come sei me. Un distruttore di questo paese, la parte migliore siete voi che in silenzio, tornando a casa dopo una giornata di lavoro, ascoltate la radio e siete inorriditi da queste valangate di imbecilli che telefonano, perché l'Italia non è razzista. Avanti, ci siamo, siamo in tanti, lo stiamo dimostrando. 100.000 Parenzo, quando vuoi. Che senso ha una marcia per i diritti dei migranti quando gli stessi migranti hanno libero accesso nel nostro paese, una diaria giornaliera e una corte adorante che va dalla sinistra a Papa Francesco passando per Gino Strada? È un'autocitazione, caro Parenzo, di un articolo che ho scritto. Ecco, che ho scritto. Ormai siamo per Libero, oggi. Però. Per quale giornale? Per il quotidiano Libero. Per il quotidiano Libero. Giornale satirico. Oggi ottimo. L'Italia. Non sapevo che ci sia anche il comico. Tu. Oggi satirico, l'Italia bravo. È il Bengodi dell'immigrato. Ma chi ha detto tra io. Arriva e può anche rifiutare di dare le generalità, beh. Farsi prendere le impronte digitali, può farlo, può anche rifiutarsi sì, di certo. prendere. Come certo un cazzo! Non c'è ombra di dubbio. Arriva e può anche rifiutare di dare le generalità, farsi prendere le impronte digitali. Subito viene assistito dagli avvocati di varie e sì. variopinte associazioni beh, che hanno tutto l'interesse quello. A farlo rimanere sul suolo italico. Quindi il presunto rifugiato riceve una piccola paga quotidiana, pasti, alloggio, in un centro affollato quando va male, in albergo nel migliore dei casi, scheda telefonica, assistenza medica, altre comodità. Non una vita di lusso, per carità, ma i beni primari, vengono ampiamente soddisfatti. Da mangiare, da bere. Commetti un reato, vieni dichiarato illegale. Ma chi ha scritto sta roba? Io. Niente paura, ti consegnano in mano un foglio di via con il quale nella stragrande maggioranza dei casi puoi tranquillamente pulirti il deretano e continuare a fare la vita criminale che facevi prima. Si tratta sempre di autocitazioni, ragazzi, sì, qui sì, non, capisco, non abbiamo nessun problema ad autocitarci. Tanto chi ti controlla, chi va a cercarti, chi ti porta al più vicino aeroporto? Nessuno. a parte pochissimi casi, ti respingono la richiesta di asilo politico? E che problema c'è? Siamo talmente buoni che ti consentiamo di fare ricorso. Anche per te che vieni da lontano c'è sempre la speranza di beccare un terno all'otto al prossimo giro in tribunale. Vabbè ragazzi, capisco che queste cose possono dare fastidio, l'autocitazione può dare fastidio, però trattasi della fotografia della realtà. Allora, eravamo con Paola. La vita da lusso per i cani, cara Paola. In cosa consiste? Tu come tratti il tuo cane? In che maniera lussuosa lo tratti? Lussuosa l'ho detto perché te hai detto che devono vivere nella merda e quindi... Ma no, io dico nella merda perché il cane può vivere tranquillamente anche nella cacca. Intendo, non nella cacca in senso tecnico, cioè non nelle feci, in mezzo alle feci, anche se possono tranquillamente starci. Non è che fanno gli schizzinosi come noi, no? Possono tranquillamente sguazzare in mezzo alle feci. Ma ci sono dei cani che vivono in piena libertà, come dovrebbero vivere. Quando uno li porta alla spa, quando uno pitta le unghiette, quando le unghie non le pitto, ma la spa lo porto. Ecco, benissimo. Che cosa fai nella spa col cane? Tutto quello che fanno gli umani negli spa, nella spa. E che cosa fa, per esempio? Ma che fa il solarium? Che fa il bagno turco? Ma quale bagno turco? Che cosa lo porti a fare? Fa il bagno turco, ma che l'idromassaggio? Fa il massaggio al cane. La maschera, certo, il tuo cane fa la maschera, certo. Ma la maschera di cosa, scusa? La maschera di che? Ma certo, la maschera vegetale. La maschera vegetale, ma se il cane potesse parlare la manderebbe a quel paese, signora. Ma non mia, mi lo dico manda con rispetto, quel paese, anzi mi ama in modo incondizionato, come dovremmo amare. Poi che cosa fai dopo la maschera vegetale al cane? Che cane è il tuo innanzitutto? Un chihuahua. Il chihuahua, va bene, si prestano particolarmente a queste cose. Allora, la faccia con la crema vegetale. La faccia col Doberman, che le parte il braccio, la zanna secondo me. No, non se penso, lei fa la spa, guardi, al Doberman, al Doberman gli girano. Sono atti d'amore, non... Paola, spiegami. Oltre agli atti d'amore, come si chiama il cane? Ma che ne so, come si chiama? Nicolò. Ma è un nome di umano, Nicolò. È il nome di una persona vivente. Mio nipote si chiama. Ma lui è un essere senziente. Ma mio nipote si chiama Nicolò. Non il cane. Anche il mio cane. Vabbè, si chiama Nicolò. Vabbè, lasciamo perdere queste cose. Io mi incazzo per tutto quando si tratta di animali. Però, Paola, siamo seri. Allora, tu voteresti per il partito della Brambilla, innanzitutto. Questo è interessante. Non mi dire ni, che già mi deprimi. Se mi dici ni, dai quasi ragione a Berlusconi quando dice che ci sono potenziali non so quanti elettori. No, ma non per quello. Il partito animalista, amico mio, ma che vuol dire? Ma comunque, a parte questo, oltre alla maschera, che fai nella spa? Che fai nella spa? Fai un sacco di cose. Ma dimmene uno, elencamene uno, che fai? Massaggi al cane. Ma noi che facciamo? Te quando vai alla spa che fai? Ma io mi chiamo Giuseppe Cruciani, tu ti chiami Paola, sei un essere umano, quello è un cane. Ma è un essere senziente. Ma sì, il massaggio al cane. Poi il massaggio. E quindi fa bene. Dare amore a creatura del mondo. Abbiamo detto amore in mezzo a tutto questo marciume che viviamo. Abbiamo detto due cose: la maschera. La maschera e massaggi. I massaggi. Ma come La cromoterapia. La cromoterapia. Certo. Non ce la faccio più. Poi ancora. Ma lei scherza, signora? No, ma non sta scherzando. Io non sto scherzando. Io sono molto seria, anche perché. Insomma, io lavoro e quindi insomma il mio denaro sono libera di spenderlo come non hai figli, no? Ovviamente non ho figli. Non ho figli. Vabbè, ma nessuno discute di questo. Cromoterapia. Crema al viso, crema al corpo, poi? Massaggio rilassante. Shopping, abbigliamento, vestiti. Ma tipo anche il cappottino, il famoso cappottino, eccetera. Magliettina, pigiamino, certo. Lei comunque non è una animalista estremista, cioè non è una di quelle che vuole. Io non sono un estremista, però insomma, se ho dei cani, io ho una vita che ho cani, li voglio trattare a modo. Lei è vegana? Assolutamente no. Questo è buono. No, guardi, io sono una sarda, quindi una sarda vegana striderà. Cioè, te magni il porcello, no? Brava, molto bene. Molto bene. Un applauso a Paola. Grazie. Che è animalista. E purtroppo porta il cane nelle spa. Ma se magna la carne. Ma mi mangio, mangio la carne. Paola, però quanto spendi per la toiletta del tuo cane? Ma guarda, io spendo più o meno la mille. La 500 al mese, dai. Sui 300, facciamo 300 euro. Una simile alla pensione di qualcuno, dai. Vergognati. Sì, vabbè, però, per questa cosa vergognati. Vergognati un po'. Ma porti anche il cane a mangiare alla pasticceria per i cani? La porti lì anche a mangiare dei piccoli dolci fatti apposta per i cani? Devo risponderti di sì. Sì, pure a questo. Pure a questo. Sì, sì, è assolutamente equilibrata la sua dieta. Quindi... Ma per te è come un figlio, è come una... Assolutamente, è come... sì. Cioè, ha lo stesso valore di un bambino. Ha lo stesso valore. Ha lo stesso valore di un bambino. Per me chiunque abbia vita, cioè, se devi salvare due vite, se devi salvare due vite, un bambino. No, vabbè, non mi estremizzare. No, ora. No, se devi salvare due vite, un bambino ma è il, no, cane, ma il tuo no. cane. Un bambino no, è il tuo cane. Un bambino è il tuo cane. Un bambino è il tuo cane. Io li salvo tutte e due. No, beh, no, non ha figli, devi come scegliere un bambino è il tuo cane, un bambino di un altro, no, il tuo vabbè, cane. Ma pur non avendo figli, un bambino è il tuo cane. Se devi decidere, un bambino è il tuo cane, chi salvi? No, non ti rispondo. Vergognati allora, vergognati. Togliamo l'applauso, togliamo l'applauso, togliamo l'applauso. Sono due esseri viventi, chiunque Emiliano ha vita Perugia. Merita amore. Emiliano Perugia, ciao Paolo. Ciao. Emiliano Perugia, vai. Oh. Emiliano, Emiliano, forza ragazzi. Che cazzo vuoi, Sultani, a rompere i coglioni. E sono a goffare la bicicletta della bambina. Aspetta, stai tranquillo, non si sa, fermo, fermo lì, fermo lì, fermo lì, fermo lì. Adesso parliamo seriamente. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento La Zanzara. La vostra trasmissione è un covo di fascisti di merda. Taci, miserabile! A Cruciani, io butterei te, ma in una vasca con abbondante bagnoschiuma. E poi, quando esci, dei rom che ti squirtano profumo. Cruciani, lavati. Allora, caro Parenzo, sabato, oltre alla manifestazione sui migranti che c'è stata a Milano, 100.000 c'è stata 100.000 donne, basta, uomini. No, ti prego, io non devo più citare, non devo più citare, sennò parte la macchinetta. Niente, parte la macchinetta. Non c'è città economicamente più avanzata del paese, dimostrando di essere. Ma che cos'è miti, sta roba? Di dimostrare un mondo che in realtà non è quello che viene rappresentato dai media, dalla vostra parte, dalla Zanzara, dai giornali, dalle televisioni, dal mainstream globale. Quella è l'Italia, quella è Milano. Ma non è vero. Uomini erano e donne 100.000 che su 40 milioni. Ogni giorno silenzio, lavorano per concorrere alla... per concorrere alla bellezza e allo sviluppo di questo paese. Quella è l'Italia. 100.000, ma eravate in molti di più a scrivere, a hashtagare su Twitter, su Facebook. Hashtagare, manco lo sai dire. Hashtagare vuol dire hashtagare. Grazie per quanti eravate e per questo messaggio meraviglioso. Sì, vedere questi sindaci con la faccia tricolore, con la fascia tricolore. Però c'è un messaggio per te. Gori, c'è un messaggio sindaco di Bergamo, ottimo, ottimo Sala, c'è un messaggio per te. Ottimo Monio Vadi, c'è un messaggio per te. C'è un messaggio. Ma gente, cittadini comuni, imprenditori, imprenditrici. L'Italia migliore. 100.000 persone, 100.000 persone che hanno perso. Ricordami, Parenzo, mi stai sulle palle. Sei anche un ebreo. Ecco, e questa è una ex prostituta che non l'ha mai esercitato, una povera ottantenne che vive in un camion, in una roulotte, che dice di fare la prostituta. Capite che Italia ci rappresentano, non esiste, è gente che non esiste. C'era anche una manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle dove Grillo, oltre a dirsi francescano, c'è stata una discussione surreale per due giorni sul termine francescano, che chi se ne frega, diciamo la verità. No, anche la Chiesa è intervenuta, sì, dicendo nessuno sbaglia, sia proprio. Sbaglia la Chiesa a intervenire. Chiesa chi se ne frega di Monsignor e cazzo bubbolo, là che era Parolin. Come cazzo? Monsignor cazzo bubbolo, che si interessa a quello che dice come Grillo. Ma chi se ne frega di Monsignor cazzo bubbolo? Ma non si chiama così. Non ma ci interessa. Ma come non i monsignori sono tutti uguali. Monsignor cazzo bubbolo. Ma come ti permetti che Italia degradata? Che dipingi, che Grillo. No, ma senti, era un Grillo particolarmente guru, particolarmente onirico. Scrive giustamente Bergasso: la 100.000 a Milano, a Capalbio manco uno. Cioè, c'era svuotata Capalbio, secondo Bergasso. Grande Bergasso. Che scrive gratis, bella cosa, bella cosa. Gratis, bellissima questa scrive, cosa. 100.000 a Milano, zero a Capalbio. Si erano trasferiti tutti. Sto trasformando pronto, polemicamente. Dario? Pronto? Mi chiama con WhatsApp per risparmiare sto genovese, pazzesco. Grillo, vai con Grillo, WhatsApp, vai con Grillo, vai con Grillo. come tu vai in ufficio, io vado verso il dubbio. Pensa un po', ho frammenti di pensieri che meno male che non ho le parole per gestirli tutti, se no altro che 10 rivoluzioni potrei fare. Quindi che cosa vuol dire cambiare idea? Idea, che cos'è un'idea? Che cosa sono le ideologie? Sono state fatte per la gente che non pensa. Beh, questo è interessante, Prezzo. Cosa vuol dire cambiare idea? Non vuol dire niente. Si può cambiare. Un giorno sei per il nucleare, il giorno dopo capisci che la gente vuole il nucleare e cambia idea. È normale, evidente. Evidente, basta un click sul computer. I frammenti di pensiero. Ma risentiamo questa supercazzola, è stupenda. Frammenti di pensiero. Sì, aspetti, quindi, risentiamo la supercazzola. Megabyte, gigabyte, gigrobo d'acciaio, è normale. Come tu vai in ufficio, io vado verso il dubbio. Pensa un po', ho frammenti di pensieri che meno male che non ho le parole per gestirli tutti, se no altro che 10 rivoluzioni potrei fare. Quindi che cosa vuol dire cambiare idea? Idea, che cos'è un'idea? Che cosa sono le ideologie? Sono state fatte per la gente che non pensa. Poi parla della fiaccola di Prometeo Zeus, senti. La fiacola è perché Prometeus ha rubato il fuoco a Zeus e l'ha regalato all'umanità. Noi rubiamo dei soldi a voi, maledetti, che li prendete sempre con tangenti e con cose, e li doniamo all'umanità, doniamo la dignità alle persone. Su questa terra siamo tutti provvisori. Ma questo è il leader di un partito, eh? No, ma senti, su questa terra siamo tutti provvisori. Ma non c'è niente di sicuro, si ricambiano due legislature, si fanno al massimo. No, quelli di adesso. Del Parlamento. No, non è detto niente così, siamo tutti provvisori anche su questa terra. Prodi è del secolo scorso, questa ha ragione però. Non lo dice. Prodi appartengono a quel secolo scorso di persone che non capiscono che la rete sta trasformando il pensiero. Prodi, quando ero andato a trovarlo, che gli ho parlato dell'open source, dei download, della velocità, dei diritti d'autore, il Creative Commons, rovesciava gli occhi e guardava in alto. Capito, Parenzo? Ma normale, ma Prometeo ha dato il fuoco, poi si è dimenticato, l'ha spento, l'ha messo. Ma la rete fa questo. Sì, scusi, ma che c'entra questo? No, basta, scusa. Ho googolato l'altro giorno, ho messo su Google Prometeo, è venuto fuori questa storia del cazzo e ho cominciato a raccontarla. Mi sembrava una minchiata talmente grossa, ma la gente ormai ci crede. No, non serve a niente. Parliamo di una cosa. A cosa serve il sole 24 ore? Ma avete mai visto un sole che sta 24 ore? Ma dov'è? Ma neanche al Polo Nord e al Polo Sud? Ma di che parlate? Il governo. Siete morti! Voi del sole 24 ore, sì, quello un po'. Finiti. Non mi interessa il governo. No, senti, non si mi governa con un click. Beh, ho capito, ma uno deve andare al governo. Sennò che cazzo ma ci presenta a fare le elezioni? Non serve orizzontale, non serve neanche il presidente del consiglio. Ma no, basta, ma scusa, ma basta no. Cliccarlo. Aspetta, lo aspetta, chiedi, aspetta. Dici, devo fare l'autostrada A4. Lo chiedi nella rete. Ti dicono di non la fai. La gente va a piedi, meraviglioso. Non mi interessa il governo cosa vuol dire? Le più grandi riforme in questo paese l'hanno fatto quando dall'82 e in poi, in 15 anni hanno cambiato 15 governi, hanno fatto le più grandi riforme del lavoro, delle tasse, dell'università, della scuola, hanno cambiato 15 governi, cosa stai dicendo? Allora, mi avvertono che in un sito che io ogni tanto consulto, che si chiama Wikifit, caro Parenzo, che praticamente fa il rating, cioè la classifica dei migliori piedi di femmine. Sai che io sono un po' malato con i piedi delle femmine, sì, no? Come molti italiani, è un feticismo abbastanza comune. C'è la valutazione dei piedi della signora Nicole Minetti. Allora uno va dentro per curiosità a vedere, anche se io mi sembra di aver intravisti qualche volta. Ma non mi pare un tema così. No, è un tema fondamentale, ma che sì, scherzi, sì, fondamentale. Gli danno quante stelle sono? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, cioè 5. Il Trip Advisor dei piedi, il Trip Advisor dei piedi, esattamente. Wikifit si chiama. Nicole Minetti, New Entry, sì. 5 stelle, cioè vuol dire una valutazione stelle. Piuttosto alta. Vado a guardare là dentro, praticamente ci sono 2-3 foto di piedi vere, perché non è che uno può mettere le foto dei piedi dentro, certo, dentro le scarpe, quelle strettissime, dentro le scarpe coi tacchi, eccetera, e dare una valutazione. Come cazzo fai a giudicare con i piedi tutti stretti là dentro? Nelle poche foto che vedo, sì, per carità, non è un piede da 4 in pagella della signora Minetti. Ve la ricordate, no? L'igienista dentale Minetti, come? Penso che tutti se la ricordano, ma tu te la ricordi, lo sto dicendo al grande pubblico. Però non è proprio da 5, ragazzi, questo piede della Minetti, eh? Non so, non l'ho visto. Adesso come si chiama questo sito? Vado a vederlo. Wikifit. Magari Wiki c'è anche il tuo, fit. No? Perché tu non sei donna. No, non credo, credo che sia. No, no, ma non è solamente per le donne, però è Celebrity Fit Website. Signora Nicole Minetti, non è da 5, no, il mio non c'è. Ma poi i piedi degli uomini non interessano. I piedi degli uomini possono anche essere orrendi. Alle donne non frega un cazzo dei piedi degli uomini. Sono le piedi, i piedi delle donne a essere importanti. E tu puoi stare con una donna, non ti guarderà mai i piedi, non giudicherà mai i piedi. Beh, io sinceramente, a me è successo qualche volta che non mi si è, guarda, mi si è ammosciato, te lo dico in maniera sincera, alle 19:43 te lo voglio dire in maniera chiara, esplicita, senza problemi. Spesso mi si è ammosciato. Ma cosa si è ammosciato? Stavo una volta con una, oh, ti giuro, non posso fare il nome, purtroppo, mi dovevo voltare, amico mio, altrimenti non ce la facevo. Mi dovevo voltare, sai quando c'hai i piedi davanti, sei in una situazione libero, intima. Libero per fortuna ancora non è in stampa. Mi dovevo voltare sicuro. Perché se guardavo, ma non c'era un cazzo da fare, non c'era niente da fare. Se mi voltavo, è così, se mi voltavo e guardavo quel piede storto, quel piede con tutti i calli sopra, quelle dita una più lunga dell'altra, quel piede non regolare. Quella prostituta di Pordenone, sarà ma questa. No, ma no, ragazzi, ma no, ma non diciamo verità, cose. No, eri con no, quella no, di Pordenone, no, eri con quella nonnina lì. Con la nonnina, stai dicendo. Con la nonnina di Pordenone, come si chiama? Ma no, ma che c'entra la nonnina di Pordenone? Che c'entra? Il camper, come si chiama? Lucia. La Lucia di Pordenone. No, no, ero con una con cui ho avuto una relazione. Eri con la Lucia di Pordenone. Mi dovevo voltare indietro, non ce la facevo, Lucia, mi dovevo tappare gli occhi, amico mio, non ce la facevo, era terribile, era terribile. Con la nonna Lucia, con la nonna Lucia, con la nonna Lucia. Aspetta, Emiliano, dimmi, che fa questo? Emiliano! Questo mi ha rotto i coglioni. La seconda volta mi ha rotto veramente i coglioni. Ma se neanche telefonare. Mi ha rotto i coglioni. Se non sai telefonare, se non sai telefonare, ritirati. Ritirati dalla zanzara, ascolta, ma ritirati. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità? La zanzara. E fammi parlare, stronzo! Allora, caro Parenzo, io una telefonatina però al senatore Pepe, Bartolomeo Pepe, ex 5 Stelle, perché alla fine viene tutto da lì, no? Cioè, diciamoci la verità, i 5 Stelle erano fortemente contro i vaccini, sono sempre stati contro i vaccini. Poi hanno cambiato idea, adesso la mettono in un modo, la mettono in un altro, eccetera. Però Bartolomeo Pepe è rimasto, a modo suo, coerente, ex 5 Stelle. Adesso è uno di quelli che dice che i 12 vaccini per legge è roba da nazisti. Da nazisti, una cosa criminale. Abbiamo già litigato una volta, vedi di non esagerare come al solito, eh. No, io lasciamo no, libertà. No, mi fai arrabbiare, guarda, mi fai arrabbiare. Sei pronto? Senatore Pepe? Sì, dimmi. Sono Cruciani, buonasera. Buonasera. Come andiamo? Oddio, non tanto bene, con questo decreto... Ecco, questo voglio sapere. La premessa è questa però, ragazzi. Parenzo, la premessa è questa qua. Sì, sentiamo. Allora, mi dicono alcuni, ma tu non puoi fare intervenire le persone che pongono dei dubbi sui vaccini, giusto, perché fai ragione. Una propaganda, eccetera. Attenzione, io sono una mente libera e voglio sentire tutti. Voglio sentire ogni cosa. Poi lo Stato prende i suoi provvedimenti e chi si vuole opporre si opporrà. Io voglio sentire tutti come principio. Beh, la propaganda antivaccinista è pericolosissima comunque. Andiamo avanti. No, allora, guarda, Prenzo, sono assolutamente d'accordo con te, la propaganda antivaccinista è pericolosissima, solo che c'è un piccolo particolare, noi siamo per la libertà vaccinale e soprattutto vaccinare in sicurezza. Io penso attualmente che la situazione con me è pericolosissima perché i vaccini non sono sicuri, alcuni vaccini sono pieni di alcune sostanze, anzi faccio l'annuncio, metto a disposizione 50.000 euro dei miei soldi a chi mi dimostra i vaccini che ha controllato Teresa Gatti, che è la ricerca. Fanno bene. Cioè, ci sono alcuni vaccini, secondo te, tra questi 12 che non sono sicuri? Assolutamente sì, sono sicuri. Siamo arrivati al paradosso, i vaccini per gli animali sono sicuri, quelli per gli esseri umani no. Tu stai dicendo che ci stanno imponendo dei vaccini criminogeni, quello stai dicendo. Perfetto. Ma come perfetto niente. Beh no, scusami, questo lo vuoi ripetere però, ci stanno imponendo dei vaccini criminogeni, dillo apertamente. Sono apertamente, ci stanno imponendo dei vaccini criminogeni, ci stanno applicando dei PSA obbligatori che ci porteranno a un aumento delle reazioni avverse. Che è pazzesco, già adesso sono abbastanza, abbiamo pubblicato con pericoli di che tipo, scusami, ma addirittura io penso che addirittura si può arrivare anche alla morte di un bambino se non ma chi l'ha detto però, scusami, ma cosa dice come alcuni bambini che sono morti da vaccino, no, ma scusami un attimo, come per essere? Ma quale morte nella culla? Non c'entra con i vaccini, ma non c'entra. Ma allora, quale morte in culla? Ma non c'entra niente con i vaccini, la morte in culla. 637 no, scusi però, scusi. Lei dice delle cose potenzialmente criminali. Perché nel nostro paese esiste una cosa che si chiama AIFA, che ha il potere di controllare e di dirci quali sono i farmaci. Quella di Poggiolini, quella di Poggiolina a memoria, fino ad arrivare a Pasqualino Rossi. Ma sono corrotti, secondo te sono corrotti dalle multinazionali? Questo è il punto. Ma insomma, ma vedi tu, abbiamo le ma vedi tu cosa? Ma è gravissimo quello che lei sta dicendo. Allora senti, ma come, scusa, stai scherzando? No, tu stai dicendo che i controlli oggi non si fanno perché questi qua hanno le mani in pasta. Vogliamo parlare dell'EMA che prende i soldi dalle farmaceutiche e nel suo bilancio, cioè è quasi normale. Lei sta dicendo delle cose che sono potenzialmente criminali perché crea il panico tra i cittadini. Ma no, chiudilo. Adesso, com'è chiudilo? No, non chiudo nessuno. Bisogna chiudere, fammi parlare. Sì, in Corea del Nord siamo. Bisogna vaccinarsi contro le sue stupidaggini. La lingua. Aspetta. Hai capito? Ma credi di essere in Israele? Chiudilo cosa? Ma non ti credi di parlare? Credi di essere dove? In Israele. In Israele. Che allora i bambini non possono parlare. Ma come ti permetti? Chi ha detto che non possono parlare? Possono parlare tutti, anche gli stupidi possono parlare. Anche gli stupidi. Ma di parola. Qui è un paese che è una repubblica delle banane, dove le multinazionali... Ecco appunto, infatti c'è lei. Infatti c'è allora, no, la cosa alla che voglio sapere, però, Bartolomeo, quando... A chi mi dimostra che i vaccini fanno bene? Dici sono le cose criminale. Che convengono a te. Ma convengono a me che cosa? Convengono a me che cosa? Cosa sostieni? Cosa sostieni che convengono a me? Cosa mi conviene a me? Cosa sostieni? Cosa mi conviene? Vai fino in fondo. Cosa mi conviene a me? Perché da chi è che prenderei i soldi io? Sentiamo. Da chi li prendo? Mi conviene a me in che senso? Criminale che non sei altro. Per due voti in più. Per due voti. Per due voti. Per due voti crei. Fermi. No, non sto fermo. Per due voti in più. Crei il panico. Per due voti. No, però scusami, Bartolomeo. Fermi. Fermi un attimo. Bartolomeo, un cazzo. Vergognati. Vergognati. Vergognati tu. Come fai? Pepe, come fai a dire che adesso quello che ci è stato imposto, tra virgolette, il decreto che è passato è frutto della volontà delle multinazionali? Come fai a dirlo? Ma ragazzi, c'è un accordo che praticamente è stato fatto nel 2013 con che ha portato l'Italia ad essere leader in sperimentazione. Non ce l'ha nessuno 12 vaccini obbligatori. Ma state scherzando? Perché in altri paesi la gente si vaccina. In altri paesi non c'è bisogno dell'obbligatorio. Dà perché la gente si vaccina. Ma che il TSO obbligate? Poi 7.500 euro, quelli che non c'ha quello che c'hanno i soldi, decidono di dire che tutti vanno bene, si pagano 7.500 euro, non ti posso, non ti vendono più un tour. No, ma non si scherza su questa roba. State facendo un'operazione vergognosa. Perché poi fate passare gli altri, cioè tipo il sottoscritto, come una persona prezzolata e pagata dalle farmaceutiche. No, questo è il sottotesto vergognoso che se lo ripeti ad alta voce ti querelo. Siete dei criminali! Perché consideri i 12 vaccini obbligatori una cosa criminale? Ma perché, scusatemi, ma com'è criminale fare 12 vaccini senza controllare questi bambini in che stato sono? Senza controllare i bambini a 3 mesi, fare 12 vaccini, ma state scherzando? No, ma uno può opporsi, portando delle cartelle mediche. Cartelle mediche si può opporre, c'è scritto... Provala tu un medico disposto a firmarti qualsiasi cosa con questo primo ma che sistema è? Cosa possono provocare questi vaccini, questi 12 vaccini, secondo te? Quali cose gravi? Certo bene non potranno fare, ma Dio santo, ho messo 50.000 euro a disposizione, a chi mi dimostra che... Ancora con 50.000 euro. Scusate, qualcuno se ne vuole guadagnare. Ma perché hai parlato di nazismo, secondo te? Ma è nazismo perché stanno obbligando, ma che non si è stato, ragazzi? Ma in quale paese, in Svezia, non hanno votato per la libertà, non hanno votato per obbligare i vaccini. Ma per te devono essere tutti liberi? Per te devono essere tutti liberi i vaccini? Allora, volete vaccinarvi? Benissimo, ma non rompete i coglioni a quelli che non fare. Ma qual è il problema? Perché? Bartolomeo, perché se uno non li vaccina, le ripercussioni non sono solo su di te, sono anche sugli altri. Ma quando mai prende il morbillo è diventato un problema? Me lo dite, la varicella. Pazienze tematiche che abbiamo preso tutti. Cioè, secondo te non c'è nessun problema, nessuna malattia ha bisogno del vaccino? Allora, fate vedere dove è l'epidemia e mi convincete. Non esistono le epidemie, sono inventate. Ma ci sono delle epidemie? Assolutamente sì, sono inventate. Ci sono epidemie in corso, c'è una pandemia. Dunque, molte cose sono inventate a favore delle case farmaceutiche. Ma assolutamente. assolutamente sì. Scusa, allora, un'ultima cosa. Mamma mia, mamma Bartolomeo, mia, Bartolomeo, un'ultima cosa. Che cos'è questa storia? Ma Bartolomeo, che siamo... ma basta con Bartolomeo. No, ma scusa, io voglio sentire. Ma mi lasci sentire o no? Bartolomeo, scusa, che qual è questa storia che praticamente i vaccini sarebbero imposti per inibire l'evoluzione della coscienza? Che cos'è questa storia? Chi ha detto questa stanza? All'inizio secolo. Chi lo diceva? Chi lo diceva? Rudolf Steiner. Ma secondo te è vero? Cioè ci vogliono imporre i vaccini per controllarci? No, ma dimmi secondo la... Secondo me sì. Qui, ok, ragazzi, se volete mettere un po' di pepe nella discussione, allora, lo avete messo. Dai, ci siamo divertiti. Grazie Pepe. Grazie Pepe. Però quando uno... quando uno maneggia il pepe, si deve lavare le mani. Allora, ecco, no, amici sono. Fare adesso che hai il suo figliolo, dovrei fargli anche la tipo pillola a virus per il tumore al collo dell'utero. Lo farò a mia figlia sicuramente. A mia figlia glielo faccio sicuramente. No, guarda che è previsto anche per i maschietti. E lo farà. Lo farà. Io l'ho fatto a tutti. Faremo un vaccino dell'antipapilloma virus che è stato ritirato in Danimarca anche ai maschietti. Grazie, solo in... io li ho vaccinati tutti i miei figli. Tutti. Non ci credo neanche molto. Mia figlia grande ha 10 anni. Tra due anni la vaccina. Che sono stati ritirati. Che hanno ma cos'è stato ritirato? No, non è stato ritirato. Ma dove è stato ritirato? In Italia? Dove è stato ritirato? Basta dire cose criminali. Dove è stato ritirato? Smettila. Ritirato. Sequestrato dai mele, porca puttana, quel vaccino non doveva essere in commercio, è stato addirittura prorogato, porco cazzo, ma tu lo fai se stiamo ricevendo il pelle? Sì, ma ho capito. Cazzo credi di parlare? Ma ho capito, pazzesco. Ma l'hai fatto causa per questa cosa di domani o no? Ma non è che ho fatto causa, è ovvio. Denunciato. Ma che c'entra questo con tutti i vaccini? Come ci avete fottuto su questo? Ci state fottendo su tutto, porca puttana! I vaccini non sono ci state sicuri! Chi? Ma chi ci state? Che cazzo ne ci state chi? Chi? Sei un giornalista, vai a vedere, porca puttana, vacca di Troia! Vai a vedere chi sono questi bastardi che stanno ammazzando questi bambini! Chi sono? Chi sono? Stanno ammazzando dei bambini! Chi sono? Danneggiati! Stanno ammazzando dei bambini! Distrutta, stasera nel centinaia! Ma che cazzo di sistema è? Ho capito! Parla di ammazzarsi, c'è la centinaia di messaggi su internet, parla di uccidersi, ma non ce ne sono più che fare. Ho capito. Che cazzo di paese di merda è questo? Ma porca puttana di una vacca, vi faremo tanto di quel casino che non avete idea se passa questa cazzo di legge. E quello sono io. Che fai? Che e farai? Mi metto in prima fila. Che farai? Non hai idea di quello che faremo. Che cosa? Non avete idea di quello che faremo. Pazzesco. Pazzesco. Pazzesco. Siete pazzeschi. Io vedo giustizia, però. Pazzesco. Hai capito o no? Sì, ho capito, ma non è che c'è un... Pazzesco. Al di là del caso di tua madre, non c'è un legame tra le persone esatto. che sono morte? Ma esatto. Cosa? Non c'è legame che un vaccino ritirato viene addirittura prorogato per l'anno dopo. Un vaccino antinfluenzale. Questo è il nazifascismo, lo volete capire o no? E dopo la libertà, ti vuoi vaccinare? Vaccinati! Ma come cazzo ti pare? Ma non puoi impedire a me di non farlo! I miei nipoti non vedranno mai una con la pelle! Mai! Altrimenti mai. Via. Non mai. Vedranno mai se questo è il sistema di vaccinazione! Ma tu che sei disposto a fare per impedire che passi definitivamente questa legge? Io qualsiasi cosa che nelle mie funzioni di senatore della Repubblica. Ragazzi, sono troppo scosso, vi devo lasciare. Ciao. Parenzo, quando attacchi così godo! La zanzara. Allora, l'altro ieri mi è scoppiata una gomma, ora ti manderò la foto. Mi sono fermato nell'area di Piazzola Romita, tra Arezzo e San Giovanni Valdarno. C'era un ricchione che mi si è avvicinato, io pensavo mi volesse dare una mano a cambiare la gomma, mi viene là, cosa c'hai amore? Lascia stare, sono incazzato per poco, mi si ribalta il furgone, se vuoi ti faccio un bel pompino, almeno ti rilassi. Ho preso il crick, gli ho detto finocchio di merda, se non ti levi dai coglioni invece che cambiare le gomme cambio i tuoi denti. Allora, ognuno è libero di fare cosa gli pare, non mi devono rompere il cazzo questi finocchi, si inculassero tra di loro, ma poi vedi uno che bestemmia, che cambia la ruota, me vuoi fare un pompino? Io te faccio ucciare il crick, no il cazzo. Allora, questo signore si chiama Luca da Perugia. Beh, Luca da Perugia. Incredibile, veramente. Non ho parole per queste cose che rappresenti. In Italia è degradante. Cioè, non mi guarda, veramente, è uno spettacolo degradante. Distruggi sto paese tu con questa gentaglia, sto schifo, questa rappresentazione di... Va, dai. terribile. Ormai è tutto degradato, tutto terribile. Degradato ormai. Sì, però questo è Luca terribile. Da Perugia, questo Luca che una volta ci passò la nonna al telefono. Sì, sarà la povera nonna. Dovrebbe calmarsi, glielo dico per il suo bene, dovrebbe calmarsi. Ma che vuol dire? Si avvicina qualcuno, al di là dei termini usati che sono quelli correnti che noi utilizziamo ogni tanto, non sempre, naturalmente quando capita, ma l'ho messo apposta proprio per sottolineare che, amico mio, non puoi essere così avvelenato, brutto finocchio, ti tiro il cric, le cose. Uno si sarà avvicinato e ti avrà fatto una proposta. È il mercato, dove c'è un mercato anche sommerso, un mercato sotterraneo, un mercato certamente marginale, dove ogni tanto le persone si incontrano. Basta dire di no. No, basta dire di no, non è. Uno perché deve reagire in questo modo così violento nei confronti di un presunto gay o omosessuale che ti si avvicina in una piazzola di sosta dentro l'autostrada per offrirti in fondo un servizio, no? Può piacere, non piacere, Parenzo, no? Però sì, uno risponde in maniera garbata all'omosessuale, no, schifo, o al presunto tale che si avvicina a te e ti offre un servizio che normalmente si può anche pagare, questo servizio. Come sai, io sono a favore della prostituzione, sono a favore di quello che si chiama, Parenzo, do ut des. Beh, il mercato funziona, e dovresti così essere d'accordo anche tu, che sei un fautore del mercato, sei un fautore dell'economia, sì, di mercato, ma non sul e dovresti essere d'accordo anche tu. L'economia di mercato funziona anche con i corpi, funziona anche con i nostri corpi, diceva Pannella, i corpi. Esatto, sì, il corpo della politica, il corpo del malato. Va bene. Mariella da Trieste, dai Mariella, vai. Devo dirti un attimo, Mariella, vengo subito da te. Devo dirti che il nostro caro Asmodeo, di cui ricordiamo alcune frasi fondamentali, Asmodeo, è chiaro. Sei Asmodeo, sì. Sei. Pure un'altra. Asmodeo, vai via. Beh, questa è stupenda. Leggo su Wikipedia. Sapete, sì, che Asmodeo ormai si informano la maggior parte dei deputati. Sì, sapete chi è Asmodeo praticamente, no? Sì, è un diavolo, peraltro della tradizione dell'Antico Testamento. Sì, è il demone, se non ricordo male. Considerato, tra le altre cose, il demone del sesso. Tra le altre cose, il demone del sesso. Allora, leggo qua, incredibile. Mi scrive il capo, non posso dire forse che si chiama Emiliano. Sì, amici miei, no? Un bel, sì, piede di una donna vale un bel... Lui scrive un'altra cosa. Sì, ma lo puoi anche dire, dopo quello che abbiamo sentito da Luca da Perù. Amici miei, ha ragione. No, ma per me vale molto, dice, di più. Dice il signor per Emiliano. Ma certo, ma per me Emiliano. Sì, ma non c'è bisogno di dire. Redattore di un'autorevolissima trasmissione televisiva del servizio pubblico italiano. Sì, ma mio amico, nostro amico, sì, Emiliano. Sì, lo conosco benissimo. Ha ragione, Emiliano. Ha ragione il signor Emiliano. Un bel, cioè, piede di vale una donna, molto più di un culo. Vale un ma bel... Non c'è dubbio. No, lui ha scritto sedere, ma vabbè, ma io dico culo è uguale. Allora, anche leggo lui su Wikipedia. Asmodeo viene sovente menzionato durante la trasmissione radiofonica La Zanzara su Radio 24. Ti giuro, Wikipedia, alla voce Asmodeo tu vai a vedere e c'è scritto sotto, vabbè, che può essere, diciamo, come dire, editato da chiunque, no? Asmodeo viene sovente menzionato durante la trasmissione radiofonica La Zanzara su Radio 24. Sovente, diciamo, negli ultimi mesi, da quando abbiamo scoperto l'esistenza, da ignoranti quali siamo, di questo Asmodeo, sì, questo di sì, cui sì, io ignoravo completamente l'esistenza. Sì, anche io. Mariella, sei vai. Asmodeo, sì, sei. Vabbè, sono Asmodeo. Io no, magari sono. Posso? Sì, chi è? Sì, ah, sì, Mariella, sì, dimmi. Allora, state a sentire, io volevo parlare, sì, degli animali, sì, di questa, sì, fobia degli animali. In che senso? Volevo, scusa, dare un suggerimento alla Brambilla, sì, perché a Trieste, sì, hanno messo sotto gli alberi un sacco di trappole per quelle, per i ratti topastri alias pantegane. Sì. Hanno fatto benissimo, hanno fatto. Hanno fatto benissimo, certamente, ma io avrei certamente, una proposta da fare. Portare, sì, tutte queste pantegane a casa della Brambilla. Questa è molto buona come idea. È molto buona questa tanto idea, è un'idea molto... Brava. E mandare tutte le pantegane, mia, a casa della Brambilla. Come lotta e questa... a dormire. Come lotta questa signora, mi fa emozionare questa signora. Mariella, è una buonissima, sì, idea, direi. È difficile, è da mettere in pratica, è molto buona come idea. Bisognerebbe prendere camion di pantegane, Parenzo. Sarebbe un'azione anche proletaria, io so presso... che voi, che sì, Truciani è stato a Trieste, mi ricordo quel giorno. Vabbè, adesso tutto, questo non c'entra nulla, perciò, però. Non mi dimentico. E cosa, sì, allora, ha fatto a Trieste? Le pantegane, sa anche Parenzo che cosa sono le pantegane. Come no? Sì, lo sai, no? Della Brambilla. Sì. Ma gliele metterei tutte a letto, a dormire con con lei. Lei è di una cattiveria. Lei è di una cattiveria, questa signora. Nonnina, questa nonnina, signora Maria è di una, con questa sua voce, di una perfidia, di una ferocia. Senza no, pari. No, perché mica non è finita là, perché l'altro giorno sul nostro giornale. Questa parla un po' come Capanna. Lei parla un po' come Capanna. So, dice Emiliano che gli manchi, boh. Senti, dico, l'altro giorno sul Piccolo era scritto un articolo a caratteri cubitali che diceva che volevano dare un bonus ai proprietari di cani e gatti con i soldi nostri. Io non ho né cani né gatti e non voglio dare nessun bonus. Brava Mariella, ma chi è che vuole dare un bonus ai proprietari di cani e gatti? Questo è il comune di Trieste che ha proposto. Male, molto male se fosse così. Ricordiamo che è lo stesso comune. Perché io dovrei pagare cani e gatti, che poi questi cani, anche questo devo dire, hanno più amore per i cani che non per i migranti. Brava cara, basta per i migranti che non ne posso più. No, adesso signora però non butta tutto, non mi rovini tutto. Basta, si occupa. Allora, si occupi di animali, si occupi del suo, signora. Entrano nei supermercati sti cani, annusano dappertutto, che sappiamo benissimo cosa fanno. Brava, io metterei delle multe esagerate su queste cacche di cani. Molto e bene, le pisce dappertutto, non ne posso più. Ma questa parla come Capanna, incredibile, il Capanna femminile, è straordinario. Io manderei un camion di Pantegana, una grande azione proletaria presso l'imprenditrice Brambilla, ex o forse attuale, che cazzo ride, o forse attuale imprenditrice delle sai che congelava i cosi, congelava i gamberi, i salmoni, congelava gli animali e se ne fotteva prima degli animali la signora Brambilla, prima di fondare il partito animalista. Adesso ecco. Parenzo, lo fai meglio te Capanna, il però partito delle pantegane. Il partito del perché non ha ragione Mariella, mandare le pantegane a casa della Brambilla, le allevi, le ospiti in casa sua, perché le pantegane, no e gli agnelli sì. Io perché dico, ma i cani nonna, sì, ma io dico e una le pantegane cosa, no. Mariella, ma brava, avanti tutta, ma Mariella, io dico, avanti. Ma ho una nonnina come lei, ma perché non ascolta un'altra radio? Ma cosa ascolta sta trasmissione sta nonna? Da cretini che fanno. No, ma però signora, mettiamoci d'accordo, lei è una simpatica e anche abbastanza educata nonnina di Trieste. Ma perché nonnina? Perché ascolta questa trasmissione che è volgare? Parenzo, basta, ecco questa storia. No, no, ma voglio dire, lo dico con affetto. Di immigrati, basta, ne abbiamo le scatole piene. Ecco, la nonnina armata. 2000 al giorno non ne possiamo nonna, più. 2000 dove al giorno? Ha ragione, 2000 al giorno. Ma perché non ascolta? Ma perché non ascolta Radio Rai, il bollettino di Radio Rai, signora? Ma ascolti una cosa, che ascolti la musica classica su Radio 3. Perché ascolta? Oppure il palinsesto di Radio 24 in altre ore della giornata. Ma perché? Nonna. Perché signora, non è per lei sta trasmissione. Ma lei è una nonnina di Trieste, no, per me, nella la città di Joyce, di Svevo, di Italo. Che mi diverti di più in assoluto. Quello della Rai, che oggi hanno anche litigato, hanno rotto il consiglio di amministrazione, se ne sono andati per quelle schifezze che fanno. È stupendo. Ha visto la Rai? Sa tutto. Ecco. Come abbiamo saputo? La zanzara. Mi zanzaro tutte le sere. Basta. Ma no, ma signora, ma lei viene dalla città di Svevo, di Joyce. Fake. O è un fake oppure la numero uno assoluta. Ma io non lo so, ma perché ascolta queste cose? Signor nonnina, mi ascolti Radio 3 o il palinsesto di Radio 24, ma non Parenzo, in questo orario. Questi discorsi li faccia alla sua nonna. Ma purtroppo ha ragione Mariella, ha ragione Mariella. Cioè, non è una trasmissione per gente della sua età, perché è volgare, ma è una trasmissione volgare questa, signora. Io penso che se metto a fare un dibattito con lei, la faccio 10-0. Ma questo può essere, però signora non le fa onore, lei è una persona anche di classe, non può ascoltare. Ma che ne sai che è di classe? Sto putridume. Ha detto Raus e gli immigrati, Raus e gli immigrati. Cosa ha detto la nonna? Che non ne possiamo più anche ha detto la signora? Che non ne può più degli immigrati. Ma da dove viene? Dalla Wehrmacht o dalla cultura triestina mitteleuropea? Allora si ricordi che noi qui, che siamo a Trieste, dico ancora a Trieste? Abbiamo la cultura tedesca. Beh, questo un po' mi spaventa, cara, sa? Perché ciao Mariella, ciao. Francamente ciao. Mi spaventa. I see a line of cars and they are painted black, with flowers and my love hope never to come back. Intanto è riapparso Carminati. Carminati questa volta chiama Palermo. sentiamo. Massimo Carminati, detto il ciacato, comincia a chiamare tutta Italia perché non ne può più e vuole che gli si cambi la linea telefonica. Pronto? Io mi chiamo Massimo Carminati, segnatelo sto nome. Non c'è il numero. Massimo Carminati, segnatelo, capito? Segnatelo. Ma cos'è? Massimo Carminati, segnatelo, così vai su internet e vedi chi sono io. Ma chiamami con il... Segna questo nome, ascolta a me. Così no, vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. Ma vai Covaliano, vai Tosa. Se mi venite a fare l'impianto bene, vai, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? Mamma, se quindi te sbrugioca sé. Se non mi attaccate al telefono entro domani, a me non me ne frega un cazzo, vado su spazio. Poi venga a cercare te. Ciao. Segna questo nome, ascolta a me. Così no, vai su internet no, e senti e sai chi cazzo sono io. Allora mamma. Massimo Carminati, segnalo. Capito? Se segnatelo. Non sono con niente, te chiami minchia. Se non mi attaccate al telefono entro domani, a me non mi frega un cazzo, vado su Suca. Spazio. Poi venga a cercare te. Suca. Vattene Satana, vattene Asmodeo. Asmodeo. Metti di Parenzo. Sei Asmodeo, sei. La Zanzara. Cruciani, ho pensato di lasciare il mio fidanzato quando una volta in macchina ho detto: io adoro Cruciani, sentendo La Zanzara. E lui mi ha risposto: chi? Quello del Kashmir. La Zanzara. Ho appena ceduto il mio posto in tram a una signora rom. Questa è la maggioranza silenziosa. Se ti piace così. Cruciani, e tu sei capace di schienare una donna? Amica mia, adesso dipende dalle situazioni, naturalmente, no? Cara amica mia, che mi lasci questo straordinario messaggio anche con una voce piuttosto sensuale, Parenzo, no? C'è una persona che conosciamo, che è stata ospite di questa trasmissione, ci ha chiamato una volta, che si chiama Tommia Canaglia, caro Parenzo. Sì, noi Tommy... conosco Jenny la Canaglia. No, quella è Jenny a Carogna. Ah. Questo si chiama Tommia Canaglia, che è un porno star, anche se fa in realtà il camionista, l'autista, diciamo come mestiere fisso, che ha pure la moglie che fa la porno star anch'essa, che mi ha twittato una immagine, come dire, dei piedi della signora impegnata in quello che puoi immaginare, no? In un'attività segante, diciamo. Adesso voglio dire, caro Tommia Canaglia, i piedi però di tua moglie non mi sembrano eccezionali. Hanno per esempio l'alluce tozzo. Hanno l'alluce tozzo. Una delle cose più oscene nei piedi di una donna è l'alluce tozzo. Cioè, quando tu hai un alluce piccolo e grosso, quella roba è oscena. Con in più l'alluce valgo, una roba da oscurarlo. Ecco, il burka andrebbe sui piedi in questo caso. Il burka, il velo, mettetelo sui piedi. Sarebbe necessario qualche volta un burka nei piedi delle donne. Allora, a proposito di vaccini, caro Parenzo, la cosa incredibile è quello che è successo, come riportato dal Corriere del Veneto, a una radio che parla molto di vaccini e hanno posizioni antivacciniste. Secondo te sarebbe da chiudere questa radio, no? Radio Gamma 5, Radio Gamma 5. Fanno una propaganda pericolosissima. Quindi... Da chiudere dunque, domanda, da chiudere secondo te questi qua? Da chiudere? Non lo so, da chiudere proprio. Magari se qualcuno nel corso della notte è riuscito a smontare un ripetitore, ma in grande silenzio, con tranquillità, in attesa del decreto del giudice ovviamente. Magari, non lo so, no? Se degli uomini incappucciati la notte, all'improvviso, tra le 4 e le 8. Tu speri che questa radio che credo sia su web, non trasmetta più, forse c'è anche sulle onde. Non trasmetta più, non lo dico. però Radio Gamma 5. No, però della propaganda pericolosa, senti, antisociale proprio. Senti quello che è successo, senti quello che è successo. Non fanno anche del male a nessuno, esprimono le loro idee. No, invece rischiano di far del male, perché la salute pubblica, quando d'accordo, si gioca con la salute pubblica, si rischia di far del male. Io sono per la libertà dello Stato di prendere tutti i provvedimenti necessari, ma sono anche per la libertà di esporre le proprie idee sul tema. Nessuna censura sui vaccini. Me ne frego di chi dice io non faccio parlare gli antivaccinisti. E sti cazzi, male, fai male, esprimono le loro idee, tu esprimi le tue e lo Stato prende i suoi provvedimenti. Comunque, Gamma 5 cosa dicono? Senti che cosa è successo. Credo sia successo sabato. Una donna incinta ha chiamato e ha detto: piuttosto che vaccinare il mio bambino preferisco abortire. Una semifollia. Un tizio che conduce la radio, che si chiama Donolato, questa è una trasmissione dalle 10 di mattina, ha risposto: ha ragione, invitiamo tutte le gestanti a interrompere la gravidanza. Questo sì che è un invito, pericoloso. Certamente, se ha fatto questo tipo di appelli, questo signore se ne assume la responsabilità. Ha ragione, invitiamo tutte le gestanti a interrompere la gravidanza oppure ad andare all'estero, come molte famiglie stanno facendo, o a imitarci. Noi a settembre toglieremo i nostri figli dagli asili, mentre quelli in età da elementari studieranno a casa, e allora vedrete quante scuole chiuderanno. Cioè, l'obiettivo è fare chiudere le scuole. Questa Radio Gamma 5. Vabbè. Cosa ha detto invece Pennacchi, che mi ha fatto scompisciare la risata, del Partito Animalista? Pennacchi, intervistato a Repubblica sul Partito Animalista, dice, virgolettato, l'intervista parte così: un partito degli animali in sé per sé non serve a un cazzo, io sono classe operaia e voto Partito Democratico. E poi dice: ma figurati, con tutti i problemi che ci sono, la sinistra pensasse agli operai, alle periferie, alle classi deboli, alla gente in difficoltà. E qualcuno, il giornalista, gli chiede: quindi un partito animalista per lei è inutile? Beh, allora facciamo un partito delle bellucci, perché è bella e figa e piace agli italiani. Figa l'ho aggiunto io, perché è bella e piace agli italiani. Lei è animalista, professor Pennacchi? Io non sono nemmeno vegetariano, il mio piatto preferito sono le salsicce con i fagioli in umido. Beh, stupendo. Pennacchione, ti amo! Quando dici queste cose, ti amo, no perché sei del PD, che cazzo me ne frega. Perché dici: a me mi piacciono le salsicce con i fagioli. Partito animalista, allora facciamo il partito delle belle con la Bellucci. Straordinario. Allora, ragazzi, io chiamerei questo tizio, perché ogni tanto dobbiamo tornare a parlare di gay, perché sì, intorno c'è gente strana, c'è gente molto strana. Sapete, inizia la stagione del Gay Pride in tutta Italia, no? E qualcuno si oppone, vuole fare una preghiera di risarcimento. Ora, risarcimento per che cosa? Dicono che a Reggio Emilia, non so, ci sono delle persone che girano, l'anno scorso hanno girato nude al Gay Pride col pisello di fuori, cose assurde. Sono sicuro che non è così. Se qualcuno ha girato col pisello di fuori durante un Gay Pride, ha sbagliato e deve essere punito. Non si gira per strada col cazzo di fuori. Su questo non c'è dubbio, no? Sì, mi sembra che siamo tutti d'accordo. L'hai sintetizzato un bene. Tizio che appartiene a un gruppo estremista, un gruppo ultracattolico, che si chiama Gabriele Colosimo, ha detto delle cose terribili. Io lo chiamerei perché voglio farmi spiegare che cos'è questa preghiera di risarcimento. Per carità, la preghiera non fa male a nessuno, però. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Pronto, sto parlando con Gabriele Colosimo? Sì. Io chiamo da Radio 24, salve. Buonasera. È vero che volete organizzare questa manifestazione pubblica, una processione riparatrice in occasione del Gay Pride? Sì, assolutamente sì, e la organizzeremo il giorno stesso in mattinata. Ma che vuol dire processione riparatrice, scusi? È una processione di preghiera per riparare lo scandalo pubblico che darà il Gay Pride. Girano insomma degli uomini nel centro città con tutto di fuori. Intendiamoci bene, noi non abbiamo problemi con gli omosessuali. In che senso non avete problema? Non abbiamo nessun problema, perché se qualcuno è omosessuale, se la vedrà lui con Dio. La cosa che voglio dire io, questa processione riparatrice in cosa consisterà sostanzialmente? Cioè, nulla. Una preghiera, no? Un rosario in riparazione del fatto che la cittadinanza di Reggio Emilia il giorno 3 giugno si vedrà dei carri con uomini seminudi, se non totalmente nudi, con le piume di pavone. E quindi? Scandalo. Io voglio capire una cosa. Per lei l'omosessuale è un po' malato, diciamo la verità. Diciamo che è un vizio. un vizio che, non, un vizio. Che secondo me, secondo sì? poi anche la dottrina sì. della Chiesa, andrebbe corretto. Si può guarire? Beh, molti sono guariti. Vi ricordate la canzone di Povia, Luca era gay? Sì, una puttanata, insomma. Sì. Beh, questo è un suo parere, comunque. Come si fa a smettere di peccare? Attraverso una seduta? Attraverso la castità, basta la preghiera. La castità, ma perché un mio quello è difficile? La Chiesa, poi, In realtà lei lo sa di essere circondato da omosessuali, cioè il mondo è pieno di omosessuali. Ma non so se lei è anche omosessuale. Ma no, io non sono omosessuale. No, qui non nessuno? No, no, non siamo nessuno di noi omosessuale. Ma comunque non ci sarebbero problemi, ripeto, non c'è il problema con gli omosessuali, questo è un grande ma non, però lei continua a dire di non avere problemi con gli omosessuali, però, amico con mio. Con azioni scandalose che vengono fatte, cioè se facessero l'etero pride con tutte con la patata di fuori, con la cosa di fuori, sarebbe uno scandalo lo stesso, intendiamoci, non è che la Chiesa... Sì, amico mio, ma non ci sono manifestazioni con gente col pisello di fuori, non ho mai viste io. Ma lei vive in un altro mondo, scusi. Ma no, ma vivo nel mondo reale. Lei che vive in un altro mondo, scusi, non si può sfilare nudi nel nostro paese. Ma è stato fatto il Gay Pride del 2000. Ma dove è stato fatto? Al massimo c'era un seno, al massimo un pezzettino di una coscia, amico mio. Ma fosse solo un seno, le sembra normale? Vabbè, amico mio, ma in televisione si vede di tutto oggi, dai, su. Scusi, ma le donne secondo lei vanno in giro troppo svestite per strada? I costumi sicuramente sono cambiati e in peggio, a mio modesto avviso. Poi se a lei piace vedere solo ragazzine in minigonna... No, ragazzine in minigonna, mi piace vedere le ragazze in minigonna, certo. Non c'è dubbio, le gambe delle ragazze è una bella cosa da vedere. Secondo lei lo faccia fare alle donne di casa sua se le piace, ma non mi sembra, a me non sembra una cosa bella, modesta da mostrare. Comunque, il problema fondamentale è che voi sperate che la società si liberi dai gay. Questo è il punto. Cioè, questo è il tema vero. Penso minimamente, anzi, ho anche delle persone, mie amiche, hanno dei figli omosessuali, quindi non c'è il problema. Ma se lei ha detto prima che i gay possono, che i gay possono. Cattolica. Ma se lei ha detto che i gay possono superare il loro essere omosessuale e... Secondo me dovrebbero, perché è un vizio, come l'alcol è un vizio, la droga è un vizio, essere omosessuali è un vizio, cioè, omosessuali sono sodomiti, cioè essere omosessuali è sodomiti praticanti, che vuol dire? Che hanno rapporti, insomma, di quel tipo lì. Perché pure il rapporto sodomitico non va bene? No, è quello proprio che non va bene. Avere tendenze omosessuali non è un problema. Avere rapporti sodomitici è un altro. Anche gli eterosessuali ce l'hanno, però. Ma non so che eterosessuali conosce lei che hanno rapporti sodomiti. Pieno, è pieno di gente etero che ha rapporti sodomiti, scusa. Ma sono eterosessuali convinti, non so, ma parlando. Ma scusi, eterosessuali non hanno rapporti rapporti anali. Ah, uomo donna, anche quello è un disordine. Beh, etero. È un disordine pure quello, pure il rapporto anale è un disordine. Sì, è un vizio, sicuramente è un vizio. Tutto un vizio. È tutto un vizio. Io davanti a fatto, uno mi dice: non ha una visione. Come la droga, dice: lontano. Come la droga, un vizio. L'omosessualità è come la droga, ma non no, può. No, vabbè. Ma dai, su. Perché gli omosessuali devono vivere in castità? Ma non hanno voglia di scopare. Scusi, glielo dico. Adesso di far l'amore, diciamo. Guardi, per se i toni sono questi. Ma no, i toni, ma è la realtà. Io lo voglio mettere di fronte alla realtà, caro amico mio. Se un omosessuale c'ha voglia di scopare. Se uno ha voglia di drogarmi e guidare, allora posso. Ma non è la stessa cosa. Drogarmi e guidare, amico mio, scusa, io mi accaloro, ma è così, non sono vizi. Ho tanti amici omosessuali e hanno una voglia di trombare pazzesca con il proprio uomo. Sì, poi così. È così, ma perché perché dovrebbe essere considerato un vizio questo? Me lo spieghi, la prego. Mi aiuti. È un vizio e basta, perché la famiglia è fatta da uomo e donna. Ma che c'entra la famiglia col sesso? Che c'entra la famiglia col sesso? Ma lei, ma dove vive? Ma sul serio, ma di cosa stiamo parlando? Perché scusi, il sesso fuori dalla famiglia è un errore? Il sesso fuori dalla famiglia è un vizio pure quello? La Chiesa cattolica dice che il sesso... Ma per la Chiesa, per te, no? Per la Chiesa cattolica, per te. Quanti anni hai? Della Chiesa, lui. Quanti anni hai tu? Gabriele, a 30 anni la pensi così, ma sei rovinato, amico mio. Rispettato. No, come voi, che state... Noi viviamo nel peccato, sì. Voi promuovete dei vizi, io dico che sono dei vizi, tutto qui è... Ma incredibile. Cosa promuoviamo? Noi non ho capito. Promuoviamo dei vizi, che ne so. Dei vizi. Sì, promuovete il vizio. Per voi drogarsi, avere rapporti omosessuali... Ma non è la stessa cosa, mi stai paragonando drogarsi e avere rapporti omosessuali, ma è una follia totale. Sì, lo so, per voi progressisti tutto si evolve. Non è questione di anche la pedofilia, poliamore, l'incesto e queste cose. Siamo arrivati alla pedofilia. pedofilia, cioè dopo l'omosessualità c'è la pedofilia e l'incesto. Vabbè, d'accordo. E la Organizzazione Mondiale della Sanità già ha depenalizzato la pedofilia come... Ma non è vero, non è nessuno, ma è una follia. Ma dove le ha lette, dove le ha viste, caro amico mio? Assolutamente cioè, sì. Cioè, se dopo l'omosessualità, secondo lei gli omosessuali sono un po' tutti pedofili? Ci sono studi per cui? Le due studi? Cose sono correlate. Sono correlate. L'omosessualità, ma quali studi sono? Dove so? Le ha visti questi studi? Su Wikipedia? Dove le ha lette queste cose? Su... Ma sicuramente non sulla zanzara. Arrivederci, no. grazie. Saluti. Ciao. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento La Zanzara. Volevo dire che Vittorio Sgarbi mi ha veramente rotto il cazzo. Io uso il preservativo, cazzo! Io uso il preservativo, Sgarbi non lo usa. Che vuol dire? Che ognuno è libero di fare quello che vuole o no? Magari è incredibile sta cosa. Allora no, ti voglio leggere una cosa. Sì, tra l'altro mi sì. ha chiamato Vittorio prima, stava ascoltando l'intervista, credo al signore anti-gay che diceva che l'omosessualità è un vizio, voleva intervenire, fra pochissimo lo chiamiamo. Proviamo a chiamare. Allora, il professor Ricolfi, che è un professore, come sai, dichiaratamente di sinistra. Questo sì, per è editorialista del Sole 24 Ore, sì, ha scritto un bellissimo libro perché siamo antipatici, se non ricordo ma anche male. Uno recentemente sulla sinistra. Un'altra serie di cose. Molto autorevole, scrive, professor Ricolfi scrive: spesso chi è per l'accoglienza senza se e senza ma, più che non conoscere i problemi, semplicemente non ne ha. Ad esempio non vive in un quartiere degradato o non abiti in un alloggio popolare in cui il racket delle occupazioni, non di rado gestito da stranieri, la fa da padrone. Cioè questo vuol dire che questi qua che sfilano per l'accoglienza senza capire una mazza, mentre l'accoglienza già esiste, tu fai una manifestazione per una cosa che già esiste e che deve essere gestita meglio, una manifestazione totalmente inutile. Detto questo, Lucia da Pordenone ci ha chiamato. Cara che... Lucia da Pordenone, dal camper di Codroipo. Lucia, vai. Quella... Pronto? Quella dimmi, dei Lucia, piedi, dimmi, quella dimmi. Tua ascolta, dei piedi. Ascolta, io ce l'ho a morte con Parenzo. Vabbè, ma questa perché? Non è una novità. Parenzo, tu la devi smettere non di dire novità, quella vecchia. Ma la signora anziana, io, dai. Aspetta, io sono ancora... No. Fammi parlare, Parenzo. Prostituta, sì, che sì, ma ti rendi conto? Ma io cosa ho fatto per dialogare con una prostituta anziana che ma non no, ha mai ma esercitato? Ma meglio vive in essere camper. Prostituta che essere come te, bigotto. Mamma mia, ragazzi. Sei proprio un bigotto, mamma Parenzo. Mamma mia. Un bigotto. Pure la prostituta anziana. Cioè. Sì, sono prostituta, sono orgogliosa di esserlo. Mamma ma mia. Piuttosto non viene nessuno da lei, ma non signora. Ma non viene nessuno. Te. Ma da lei non viene nessuno, signora. No, perché no, nel camper, nella roulotte, non può venire non nessuno. Non ti preoccupare, che se tu vieni da me, io ti mando a cagare. Ma io non ci penso minimamente. Se ma tu minimamente. Vieni con me, io ti mando a cagare. Ma io non ci penso lontanamente. Forse l'ultima donna sulla faccia della terra. Io non vengo là. Perché nessuno ti carica. Nessuno là, ti vuole là, con quegli occhi sono... da palla che hai. Ma che ne sa, signora? Con quegli occhi da palla, quanti brutto quanto la fame. Beh, la fame è meglio di te. Sarà la principessa azzurra lei. Quanti sarà io sono una principessa. Sei quanti proprio. Clienti hai fatto? Io sono nessuno. Una principessa, non ricordati nessuno, Parenzo. Nessuno. Quanti nessuno. Io con zero. Te sono una principessa. Zero assoluto. Primo. Aspetta, secondo Lucia. Voglio parlare anche con quello lì che ha detto che mi ha dato 15 euro a me. Chi? Quello lì che quello ha detto che è un cliente mio. Quello lì è venuto da me. Ma quando? Ma chi ha parlato? Quando ha parlato? Alla radio. Io sento tutti i giorni la vostra radio. Sì, ma ho capito. Ma chi è che ha detto? Non è vero. Sì, me lo ricordo adesso che ti ha dato 15 euro? Sì, no, ma quello lì è venuto da me. Adesso ti dico io la verità. Vabbè, perché ho capito. Non è la storia del secolo. E non è neanche di Pordenone. È di Torni di Pordenone. Vabbè, uguale. Insomma, che... aspetta, qual è il aspetta, punto? Non ti ha pagato? Aspetta, qual è? Aspetta. Sì. No, non è neanche... cercava trans. Vabbè, ho capito, ha trovato invece... Perché io come mi concio, sembro proprio un trans. Beh, questo non mi stupisce. E allora mi ha detto, c'è di sei trans? Io ho detto no. E allora? Io voglio trans. E allora? E perciò con me 15 euro, io non sono fuori per la carità. Vabbè, oddio, 15 euro ogni tanto alla tua età ti non puoi... Non penso proprio, preferisco andare a casa senza una lira, piuttosto piuttosto che andare a 15 euro. Vabbè, questo è un buon discorso economico, Parenzo. In fondo questa è la radio di Confindustria e si fanno anche questi ragionamenti. Cioè, praticamente l'economia di mercato suggerisce che per 15 euro Lucia da Pordenone sostanzialmente non fa nulla. Non faccio niente. Avvertenza a tutti: se vi trovate dalle parti di Codroipo, avete voglia di una sveltina, eccetera, e pensate di potervi servire presso la signora Lucia a 15 euro, vi sbagliate. Ferma lì, Lucia, ferma lì. Vittorio! Eccolo! Eccoci qui, come andiamo? Parole sante, beh, è stata bellissima questa parte, per due ragioni. Sì, dimmi. La prima è che Lucia ha perfettamente ragione, perché una prostituta ha diritto di fare quello che vuole, sì, e quelli che vanno con lei, sì, facendo il suo bene, non possono essere chiamati miserabili. Bravo. Chi chiama miserabile? Parenzo, una persona, per esempio. No, la questione è quella, come fa a lodare quelli che lo prendono nel culo, lo mettono nel culo? Vabbè, in gran parte dell'attività omosessuale e prostitutoria. No, non è soltanto l'amore di due. L'attività è quella di persone che vivono un raptus erotico, sì, che può essere anche a pagamento, in cui entra anche la pedofilia. Vedi siti, vedi Busi, vedi Parente. Cioè, il tema della pedofilia è un ragazzo che scopre di essere omosessuale. Ma che c'entra con la pedofilia? Anni? Che c'entra con la pedofilia quelle persone che hai citato? Scusami. No. Cioè, non hai letto il libro di siti? Siti non fa l'elogio della pedofilia, scusami. No, non è che fa l'elogio, ma indica che la nascita dell'omosessualità coincide con un momento in cui il ragazzino ha delle tentazioni, che se sono eterosessuali siamo noi a 13 anni che vogliamo scopare la supplente, se sono invece omosessuali inducono a un rapporto che viene chiamato perverso. Ma è esattamente la stessa cosa. Cioè, mi stai come dicendo... tu vuoi scopare con una donna a 13 anni? Uno che vuole prendere il culo a 13 anni non ha diritto? E allora se ha diritto siamo nell'ambito della pedofilia. No, ma tu stai dicendo che l'origine dietro un dito, altro che miserabili. Tutto può essere fatto, tutto, ma proprio perché è peccato, è bellissimo che sia peccato. Se togli la parola peccato, non solo togli il divertimento, ma quel divertimento legittima tutto. Sì, ma quindi, ho capito, Lorenzo, però non legittimi chi lo prende del culo a 13 anni. Ma chi è che lo legittima? Beh, certo, lo legittima perché chiami miserabili quelli che vanno con le prostitute. Ora, quei ragazzini lì, no, stessa cosa, cominciano ad andare come ragazzini in discoteca per la carica del telefono, ti fanno un pompino per la carica del telefono. Ma questo è vergognoso, però. Ma certo che è prostituzione, non c'è dubbio. Sto dicendo che c'è mille contraddizioni nel falso moralismo di lui. Tutto l'ambito del peccato è scopare fuori del matrimonio. Meglio quello che ha detto quella cosa, che non voi che siete legittimisti per una parte e moralisti per l'altra. No, io non sono moralista per niente. Tu temi che la pedofilia sia soltanto una questione omosessuale? No, chi l'ha detto? Io ti sto dicendo semplicemente che non puoi legare pedofilia e omosessualità. No, ma nascono insieme, solo che se per te, io la mia supplente Stanchi, con delle gran tette, a 13 anni, me la volevo scopare, era pedofilia se l'avessi fatto. Da parte sua, certo. Da parte sua stare con me, sì, perché avevo 13 anni. Sì. Io avevo 13 anni, la pedofilia è identica tra eterosessuale e omosessuale, ma tu a 13 anni che vuoi scopare ti senti normale. Il bambino che lo prende nel culo si sente normale perché è un omosessuale. Beh, insomma, dipende. Allora, i confini sono quelli lì. Non è vero, il bambino a 13 anni viene a 13 anni, purtroppo, ci sono degli orchi che ti vogliono inchiappettare. Sì, ci sono anche delle orche, è la stessa cosa. O delle orche, certo. Se tu da bambino, Parenzo, lo vuoi prendere del culo, sei nell'ambito della pedofilia. E se io, bambino a 13 anni, voglio scopare una supplente, sono nell'ambito della pedofilia. È inutile che vi nascondiate con delle... Dovete avere più coraggio. Ma guarda, quello che diventa omosessuale lo diventa anche a 12 anni. Ma chi ha detto niente? Non dice niente in questo, che c'entra? Ma è chiaro che c'entra, che non è che uno è miserabile, tutto va bene, tutto va male. Il ragazzo che è morto in collegio, è miserabile chi compra il corpo di una persona ma sfruttata. Non è vero, non è che lo compra, questo lo dà. Non è che lo dà, la ragazzina lo dà perché vuole lei 15 euro per caricare il telefono, altro che questa brava prostituta. Lo vuole, in discoteca, va lì, ci sono libri che raccontano. Ma per te va bene? Per te va bene questa cosa? No, a me non va né bene né male, siete voi che avete... Ma scusa, una ragazzina che ha 13 anni, 14 anni, come dici tu, fa sesso per una ricarica. Il problema è di chi gliele dà la ricarica. Non è che va tutto bene. È lei che lo cerca. Ma ho capito, ma non è che... Ma che vuol dire? Ma non è che sono la stessa cosa? Se lo fa gratis, ma no, è peggio, anni. È uguale, ma è la stessa cosa, certo. Però è miserabile se uno paga, e non è miserabile se uno non paga. Beh, se uno paga c'è l'aggravante, semplicemente. No, non è perché... un aggravante, non è né grave né non grave, è la verità del sesso che nasce quando nasce, per te, per me, ma per d'accordo, tutti, però siete ci sono dei moralisti, ma, tutti e due. Ma ci vogliono dei limiti di, se, di limiti di età, dai, tu non certo. puoi andare no, se, no, c'hai, non se c'hai limite. 20 anni non puoi andare con uno di 12, dai, no, su. No, ma tu non è che non ci devi andare per una tua scelta morale, ma no, anche però per viene. La legge, anche per la legge, ma la legge è un'altra legge fatta con i piedi, perché la legge è sbagliato, la legge è sbagliata perché 14 e non 13 dovrebbe essere un solo, ma ci vuole un limite, ma ci le mestruazioni, le mestruazioni. Allora, ma tu sai che diventano madri le bambine nel mondo arabo a 12 anni? Ma cos'è questa morale del corpo? Ma quale morale del corpo? Ma ragazzi, corpo? Ma ci vuole una morale storica. Ma ci vuole un limite di età, Vittorio, se altrimenti è la barbarie, ma se non c'è, c'è non c'è nel mondo arabo. E il chi se ne frega, allora, appunto, peggio, arresta, peggio. Oggi, come peggio? Ma peggio, quelli sono arabi, dobbiamo distinguerci da questo, no? Come? Ma come distinguerti? Cazzo, se un uomo vuole andare con un bambino di 13 anni o con una Vittorio, bambina. Vittorio, no, non è che vuole andare. Ma non vuole anche andare. Se ci vuole andare uno di 13 anni con un uomo, è uguale, no, la stessa però, cosa. Vittorio, no, sta dicendo una che, cosa. Ma scusa, non hai letto Ernesto di Saba, ma leggete qualcosa. È interessante quello dicendo, che dice Vittorio. Voi Vittorio, siete dei poveri moralisti. No, ma non è stata la morale. Il sesso non ha i confini che stabilite voi. Va bene, e d'accordo. Quindi non può essere né immorale. No, ma però, come Vittorio sa, come Vittorio ricorderà, ad esempio, quello che lui dice, c'è scritto nell'istituto di diritto romano, se uno fa all'esame di diritto romano, me lo ricordo, l'esame di diritto romano ti dice che la capacità coeundi e generandi, allora, dai, è da, sì, cioè è le ragazzine nel diritto romano, esattamente, nel diritto romano appunto, si dice una bambina, però il diritto romano, voglio dire, dal diritto romano a ragazzi, oggi si è fatta un'evoluzione, no, no, ho capito, ma non è che sia meglio il però nostro, voglio dire una cosa, vuol dire diritto però, naturale al di là di questo, Vittorio, al di là di questo, io voglio dire una cosa, ma questa storia dei Rolex, ho letto una cosa, ho sentito una cosa memorabile di oggi sulla Vicari. No, ma ha detto una cosa incredibile. Cioè, tu consideri la Vicari, c'è il sottosegretario che si è dimesso, vediamo sostanzialmente una cretina, diciamo, tu così ma hai detto. Una cretina, una poveretta, una disperata, una che cioè, ma neanche lei può. Ho letto oggi a Spataro, ho fatto una cosa sulla giustizia Torino, che i reati cominciano da Rolex in su, da Rolex in giù, Alfonso Pappa, cioè questi miserabili a cui piace il Rolex, vanno graziati. Non puoi neanche cominciare l'inchiesta. Se uno fa una legge che sgrava di 7 milioni di euro alcune tasse a danno dello Stato e prende un Rolex, ma quello è un bambino deficiente. Cioè tu non ci credi, non ci credi a questa cosa? No, non ci credo, ma voglio dire, in ogni caso va perdonato, cioè è proprio la prova della sua miseria mentale. Ma la Vicari chi ce l'ha messa al governo? Dillo, allora, chi ce l'ha messa? Alfano! Quella è pornografia, quella è essere miserabili, quella è pedofilia. Alfano è la pedofilia al potere, è il massimo dell'orrore. Perché la pedofilia? Peggio dei pedofili, secondo te? Peggio dei pedofili, addirittura. Sì, no, no, non pedofilo nel senso operativo, no, pedofilo nella mente, uno che mette la Vicari lì, e ora che ha un cervello da 1 ad 8 anni. Perché comunque uno può dire un cervello da 8 così, anni, dai, non puoi ma non è vero, ma non è vero. Cioè, c'è un cervello da 8 anni, quella lì andava a mettere le pulizie nei cessi. Ma dai, ma non si può, ma non la Vicari. Ma perché dici così? Perché la conosco bene, la conosco benissimo. E anche quell'altro, il suo fidanzato, sono tutto della Vicari. Perché ti ha querelato? Ma lì che scende con il cefalù. Allora io sciolsero dannatamente il mio comune per mafia. Sì, sì. E io mi candidai a Cefalù. E loro si sono opposti. Si sono opposti e hanno messo un altro assessore di Milano che era Croci. Sì, che avrà e fatto un disastro. Mi cicchei la Vicari. Io in piazza discutevo dicendo l'uomo, quello della il pizzaiolo che mi candidò. E oggi me lo ricordo. Poi mi hanno querelato per la pizza. Devono morire sotto il Rolex, devono mettere solo il buco del culo il Rolex. Vabbè. Sono uno che si mette per un Rolex, non è miserabile e non va neanche considerato. È proprio una cosa mi fa. Lo sai che io i Rolex mi fanno schifo. Tu hai detto che ne hai diversi di Rolex. Io ne ho diversi, non li ho mai messi, ma voglio dire, mi fanno orrore anche a me i Rolex. Mi fanno orrore, poi ci faranno una campagna perché siamo contro i Rolex. Sì, sicuramente si metteranno contro di noi. A me devo dire la verità, i Rolex è una grande azienda, perché tutto quello che volete, no, mi fa schifo i Rolex. Moltissimo. A me mi fa schifo. È un oggetto che mi fa schifo. Miserabili. Scusa un attimo, ma spiegami una cosa, i piedi delle donne ti piacciono a te? I piedi delle donne. Che uno se lo compri. Molto graziosa che viene corteggiata per i suoi piedi, perché altro non è giusto che dia, c'è Don Rico, un amico artista che si occupa dei suoi piedi. Ma a te piacciono i piedi delle donne? Ma per la verità li guardo poco, cioè, tendo ad avere quella puzzina un po' da... Bella, buonissima la puzzina. Sì, è bello che caghi, quante volte caghi al giorno? Io vi lascerei, ragazzi, 7, 8, 9 anche. Ma anche in tantissimi cessi? In tanti cessi diversi? Sì. Il cesso più nobile in cui hai cagato qual è? Il cesso più nobile, ti prego, il cesso più nobile. Il cesso più nobile ultimamente è quello appunto del labirinto di Franco Maria Ricci alla Masone, dove tu eri. Ma come no, fatto dire a qualcuno, non vedere d'arte. Quel posto dove ha cagato Sgarbi, parlando con Buffon di Chagall. Ma a proposito, scusa, perché parlavi con Buffon? E questo è un amico di Buffon. Ma come mai c'è questo legame Buffon-Sgarbi? Perché lui si è iscritto a Rinascimento, no, quando io sono partito. Veramente? E ha un'idea politica che è quella per cui è giusto fare le cose. Ma non è che tu gli vendi delle opere d'arte ogni tanto, gli fai da consulente? No, no? Non ho mai visto casa sua, tra l'altro. Però so che si occupa di opere d'arte, perlomeno si occupa della conoscenza. Perché ve le parla, cioè, ma perché parlavate come se foste amici, se mi si conoscesse? Sì, sì, siamo amici, siamo amici. Ma qual è il legame? Lo porti ogni tanto a fare qualche visita? Che quando ho cominciato, ormai qualche mese fa, lui cominciò a scrivermi dicendo che era assolutamente convinto che fosse arrivato il momento di fare questa ma cosa. Ma secondo te farà politica prima o poi, Buffon? Non potrebbe farla, per esempio, l'idea che gli piace di più è la mia teoria. Cioè, lo vedresti meglio lui di Gentiloni, meglio lui di Renzi. Gentiloni, poverino, Gentiloni. Cioè, lo vedresti ministro, capo del governo? Beh, Rolex ha Gentiloni, sta guardando il numero nessuno di Rolex. Non il problema è che lui ha condiviso questo dato, che lo condividete anche voi, che vanno fuso l'economia e la cultura con il ministero del tesoro. No, ma Buffon, come lo vedete? Come lo vedresti in prossimi? Lo vedi a far politica come ministro? Lo vedo come ministro dello sport. No? Non beh, buono, questo è buono, questo è buono, questo è buonissimo. Puoi separare le reti. Comunque, Parenzo, che cos'è la foto di l'immagine di Sgarbi nel cesso, criticata da molti? So che qualcuno si è incazzato. Sì, è piaciuta, qualche azienda si è incazzata, non ti vuole più far fare delle cose, così mi hanno detto, ma non ci credo io. Parenzo, dimmi come vedi questa cosa qua. Un'opera d'arte, che cos'è questa roba? Un'opera d'arte straordinaria. Ciao, sì. Ciao Vittorio, ti abbraccio. Ciao, ragazzi, ciao, ciao, grande, grande. Miserabili! Dai, cazzo! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Parenzo, tu sei il più grande culatore del mondo.